100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Ieri sono arrivate diverse notizie che riguardano il lavoro, i dati sulla cassa integrazione, che come al solito restituiscono una fotografia non proprio nitida del momento attuale, con una diminuzione nei primi 4 mesi dell'anno della cassa integrazione ordinaria, quella che viene utilizzata dalle imprese per far fronte a situazioni temporanee di difficoltà, ma con un aumento della cassa straordinaria, cioè quella utilizzata per le crisi strutturali, una conferma di come sia ancora in atto un profondo processo di riorganizzazione a livello delle aziende. Abbiamo poi sentito il presidente dell'Istituto Boeri tornare sul tema dell'utilizzo fraudolento dei voucher lavoro, e possiamo aggiungere noi anche degli incentivi sulle assunzioni che alcuni datori di lavoro hanno utilizzato in modo scorretto. Due fronti sui quali è importante garantire subito, da subito, il rispetto delle regole. C'è poi una terza notizia: il decreto grazie al quale già nel 2016 si potrà applicare una tassazione agevolata con imposta fissa al 10% sui premi di risultato concessi ai lavoratori sulla base di contratti aziendali o territoriali legati agli incrementi di produttività. Fisco leggero anche per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, e infine le imprese potranno dare ai lavoratori voucher finalizzati all'acquisto di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale, ad esempio per l'educazione e l'istruzione dei figli o per l'assistenza ai familiari anziani. Ecco, questo è un modo intelligente di utilizzare gli incentivi. Il fisco fa un passo indietro, ma lancia un buon segnale tanto ai lavoratori quanto alle imprese. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Alla fine l'Italia dovrebbe crescere dell'1,1%, lo ha detto oggi l'Istat, che ha rivisto le stime del PIL per il 2016, anno per il quale il governo prevede un tasso di crescita dell'1,2%, che peraltro ha già rivisto al ribasso all'inizio dell'anno. Per l'Istat è un bene che siano bassi i costi dell'energia, che siano vicini allo zero i tassi di interesse, che sia aumentato in modo seppur graduale l'indice di fiducia delle imprese e dei consumatori. Il dato migliore delle stime di oggi, infatti, è proprio quello sui consumi delle famiglie, che vengono accreditati in aumento dell'1,4%, perché aumentano i posti di lavoro e quindi anche il reddito disponibile, e questo effettivamente è un buon dato. È proprio la domanda interna, infatti, che farà aumentare il PIL, perché a marzo ha registrato un calo nelle esportazioni dell'1,1% annuo e i punti di crisi economici nel mondo sono aumentati, e questo riduce le possibilità di sbocco delle merci italiane. Il tasso di disoccupazione invece dovrebbe attestarsi sull'11,3% e l'occupazione dovrebbe continuare a un ritmo di crescita dello 0,8%. È ancora una volta una fotografia realistica di una ripresa gracile ma comunque persistente. L'annuncio fatto dall'Europa che l'Italia potrà utilizzare 13,5 miliardi di euro in più per la gestione del bilancio è una buona notizia e potrebbe anche aiutare a corroborare quell'indice di crescita. Sono due le partite importanti che l'Italia dovrà gestire, quella dell'abbassamento delle tasse e l'altra dell'aumento degli investimenti. Solo così la ripartenza diventerà davvero un decollo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.